siamo vecchi, insoddisfatti o giovinastri, già delusi, accendiamo lo schermetto per sentirci un po' collusi, con un mondo tutto d'oro che ci strizza l'occhiolino di bellone, di belloni che si nutrono a martini, hanno auto sfavillanti che bevono come alpini e hanno tutti almeno quattro conti nel Canton Ticino, ma quel che ci fa dare di matto è un bel cadavere putrefatto, contratto storpio un po' tumefatto, ucciso da un pazzo slovacco che si è fatto anche l'autoscatto, perché era negro proprio strafatto, perché era negro proprio strafatto, perché era negro proprio strafatto. Piace proprio tanto il DG che ci propina una fila di straziati fra uno spot e una velina, il dolore delle vecchie e le foto di bambini violentati e spezzettati voglia mettere in vetrina, e ci piace che i colpevoli siano tutti magrebini per poterli disprezzare e far salire l'adrenalina, ma quel che ci fa dare di matto è un bel cadavere putrefatto, contratto storpio un po' tumefatto, ucciso da un pazzo slovacco che si è fatto anche l'autoscatto, perché era negro faccio strafatto, perché era negro faccio strafatto, perché era negro faccio strafatto. Ci fa sentir vivi, vedervi morire, e con le vostre disgrazie ci piace abbellire, alla nostra vita che ci fa vizzire ogni giorno di noia fino a morire. Gli extracomunitari è sempre bello dare addosso, ma è anche bello che ogni tanto il cattivo sia comune, parlar bene del vicino con il viso ultra commosso e svelare ogni dettaglio di quella robusta fune con cui senza complimenti ha strangolato 9 donne, le ha spellate, le ha conciate, le ha vendute come gonne, ma quel che ci fa dare di matto è un bel cadavere putrefatto, contratto storpio un po' tumefatto, ucciso da un pazzo slovacco che si è fatto anche l'autoscatto, perché era negro faccio strafatto, perché era negro faccio strafatto, perché era negro faccio strafatto, perché era negro faccio strafatto.